Il punto di Stefano Folli. La prima passerella internazionale di Matteo Renzi è servita al Premier soprattutto per farsi conoscere, per tessere quella rete di relazioni personali che è fondamentale poi nel corso del mandato. Ma la credibilità e l'autorevolezza sulla scena del mondo è un'altra cosa. Richiede tempo per essere costruita, richiede soprattutto che il governo sia solido e determinato in patria. Ieri, a dire il vero, il segretario di Stato Kerry ha dato una mano a Renzi, incoraggiando il suo piano di riforme e le linee della politica economica. È servito a compensare in parte il pessimo effetto della bastonata ricevuta il giorno prima dalla Commissione europea. Insomma, nulla è perduto, ma c'è tanto da lavorare. L'Italia sa quello che deve fare, dice Renzi, e tutti speriamo che sia vero, anche per quanto riguarda la legge elettorale che rischia di incagliarsi. Tutto dipende dal Senato, primo perché anche Palazzo Madama deve votare la riforma, secondo perché urge la revisione costituzionale che riguarda la Camera Alta. Ancora non si capisce quale sarà e questo crea grave incertezza.